Nei vecchi film di Franchi in Grassia, uno dei luoghi narrativi più frequentati era quello costituito da loro due siciliani all'avventura, inseguiti dalle fidanzate che avrebbero lasciato volentieri alle terre natie. Ecco allora che Ciccio e Franco vanno a Roma o a Milano o nella peccaminosa Parigi, dove avvicinano maldestramente fanciulle giovani e belle del continente, come si usava a designare ogni terra che non fosse Sicilia, prospere e maliziose francesi, slanciate vichinghe, disinibite svedesi, secondo il paradigma delle gerarchie sessuali dell'epoca. Le fidanzate sicule, immancabilmente di nome Santuzza e Concettina, immancabilmente afflitte da stigmi fisici tanto palesi da sedare l'appetito sessuale ad un orso bruno del Montserrat, attendono pazientemente o danno la caccia ai reprobi, diciamo, fino a sancire la loro resa. Negli annunci di relazioni a pagamento, annunci che i giornali classificano non senza eufemisticità come economici, ne sono comparsi alcuni che testimoniano ad un tempo sia di quanto anche il mercato del sesso sia intimamente dipendente dal mercato ideologico, sia di quanto fosse fondato il detto evangelico relativo agli ultimi che saranno i primi, e sia infine di quanto una paziente selezione darwinian mercantile prima o poi finisca col mettere nella vetrina della storia qualsiasi artefatto. Ne leggo tre di questi annunci. Marica, scusate, Marica e Luana, belle siciliane, ti aspettano per intriganti conversazioni. Spregiudicate siciliane per piccantissime conversazioni, conoscenza approfondita giorno e notte. Universitarie siciliane bellissime, annoiate, cercano svaghi notturni, aspettano proposte telefoniche. La visione parmenidea dell'esistenza, quella che giura sull'immodificabilità dell'essere, constata il fatto che ancora e sempre la conoscenza approfondita avvenga giorno e notte e che le universitarie bellissime siano annoiate. La visione eraclitea dell'esistenza, quella che vorrebbe che tutto, ma proprio tutto, scorra senza posa, invece constata che Marica e Luana hanno preso il posto di Santuzza e di Concettina, e che la conversazione da loro proposta potrebbe persino non essere metaforica. E poi, ovviamente, che la Sicilia sarà la prossima meta di uno Sven, di un Hans, in cerca di emozioni forti.